Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica, benvenuti, bentornati a Magazine 24, appuntamento ogni domenica a quest'ora con i settimanali, con i periodici mensili italiani e anche stranieri, quando troviamo poi qualche cosa di divertente. Questa mattina non so perché mi va di parlarvi di economia, sarà perché preparando un po' questa puntata insieme ad Anita Panizza ragionavamo sulla quantità di spunti economici. Sarà stata l'approvazione da pochi giorni della manovra, sarà il continuo parlare di questioni di soldi, sarà stata la crisi delle borse, ma insomma sembra davvero che le testate periodiche abbiano sviluppato una attenzione prima non così forte appunto per le tematiche economiche, comprese delle cose magari non tanto scontate, qualche volta sorprendenti. Vi segnalo Vita che come sapete è settimanale che si occupa di no profit, del mondo del no profit, ha un San Francesco in copertina, e questo devo dire con l'economia non c'entra molto, essendo appunto un campione invece della rinuncia, ma all'interno un grosso servizio curato da Antonio Sgobba su il rincaro delle sigarette, perché tra gli tanti effetti dell'IVA al 21% che sta portando dei rincari, alcuni ohimè anche non proprio legati a questo punto percentuale di IVA, bene, tra i tanti rincari c'è anche il rincaro delle sigarette. Tra l'altro qui si presenta proprio su Vita un grafico in cui una sigaretta viene suddivisa e si fa il calcolo di quanto effettivamente poi resta al rivenditore o al produttore. Molto poco, nel senso che l'aggio, così si chiama la particolare somma riconosciuta al tabaccaio, è del 10%. Il margine medio ovviamente per i produttori è calcolato intorno al 14% della sigaretta. Poi c'è un 17 spicci di IVA che influisce appunto con la sua aliquota di recente aumentata, e va aggiunto a questo la parte più grossa, cioè il 58% delle imposte di consumo che sono le accise. Quindi c'è una larghissima percentuale, una enorme percentuale destinata ai proventi appunto erariali e una piccola percentuale destinata al commercio. Questo naturalmente viene anche esaminato nel lavoro di Sgobba anche come momento di prevenzione, perché il caro pacchetto può servire, si spiega appunto, per prevenire, per scoraggiare le persone dal fumare. Non è particolarmente efficace, però è un dato di fatto che i consumi in Italia vanno diminuendo e i costi delle sigarette vendute vanno sempre aumentando. C'è un bel grafico che lo mostra: nel 2004 il prezzo del prodotto, diciamo così, di base era inferiore ai 3 euro, adesso il prezzo di un prodotto di sigarette di base, non diciamo particolarmente top di gamma come lo chiamerebbero i produttori, è intorno ai 4,20 euro, quindi siamo passati a 1,30 euro di rincaro. Vi do qualche altra segnalazione da questo lavoro di Sgobba, che ci informa tra l'altro che la filiera del tabacco porta all'erario 13,7 miliardi, la filiera quindi di produzione del tabacco, il giro d'affari della vendita di sigarette 17 miliardi. Questi i dati degli incassi 2010 a favore dello Stato. L'aumento dell'IVA poi appunto ha avuto un effetto di trascinamento su tutte le altre voci. I produttori stessi lo confermano a Sgobba su questo servizio di Vita, dice: c'è un fattore moltiplicatore che fa sì che l'aumento diventi più che proporzionale. Qual è la conseguenza? Un probabile decremento del mercato italiano, secondo i produttori, cioè fumeremo meno. Questa potrebbe anche essere una buona notizia. È un dato, però, confermano gli stessi produttori, a cui siamo abituati, perché negli ultimi anni il mercato italiano è sempre stato in calo intorno a un punto e mezzo. Quindi l'Italia è ormai definita come mercato maturo, come molti mercati dell'Europa occidentale, può al massimo consolidarsi e non crescere. Tutto questo su Vita. Naturalmente ci sono delle altre cifre, ma queste ce le immaginiamo tutti noi fumatori, insomma molto meno neutre di queste riferite al denaro, che riguardano invece le malattie che sono collegate al fumo. Vi invito a leggere su Vita quanto può essere dannoso, quanto può essere letale questo vizio che colpisce ancora troppi italiani da questo punto di vista, dal punto di vista della salute. Continuiamo a parlare di soldi, ma di soldi che non ci sono più, o perlomeno non dovrebbero esserci più, invece ci sono ancora, le lire. Allora, 10 anni fa siamo passati all'euro e nel febbraio 2012 avremo proprio questo decennale, che sarà anche un momento importante perché è l'ultimo momento consentito per il cosiddetto changeover, cioè per cambiare le nostre lire in euro. Roberta Carlini sull'Espresso di questa settimana ci fa però sapere che ci sono ancora in giro banconote in lire per un valore corrispondente a 1 miliardo e 300 milioni di euro, che appunto bisognerà ricordarsi anche di convertire entro febbraio, cioè bisogna in qualche modo tirarle fuori dai cassetti dove sono rimaste, dalle cassette di sicurezza o chissà dove altro, e portarle appunto a cambiare. C'è una bella tabella che ci informa che ci sono ancora in circolazione 196 milioni di biglietti da 1000 lire. E poi ci sono un po' di 2000 lire, un po' di 5000 lire. Mi immagino che oramai qualcuno, magari tra gli ascoltatori più giovani, abbia anche perso la memoria di come erano fatti questi biglietti. Però quello che sorprende è che ci sono in giro anche parecchi pezzi da 100.000 o da 500.000 lire, che non erano proprio una cosa che si può lasciar lì a cuor leggero. Scrive infatti Roberta Carlini: c'è un signore che, abitando a New York, ha trovato per caso, svuotando la casa paterna, 87.000 lire e non sa precisamente che cosa farsene, vuole sapere se può farne qualcosa. Poi ci sono i parroci che segnalano che dopo la messa da domenica continuano a trovare nel sacchetto della questua anche delle monetine o delle 1.000 lire, delle banconote da 1.000 lire. E, ripeto, la data di conversione, così lo ricorda anche Roberta Carlini, è la fine di febbraio del prossimo anno, quindi entro febbraio 2012 bisognerà convertire queste lire in euro, non avranno più corso. Però il tesoro è un po' preoccupato per l'aspetto che potrebbe essere legato al riciclaggio. Allora, detto in lire, il valore complessivo era 2.500 miliardi, vi ho detto 1 miliardo e 300 milioni di euro. Se facciamo una media per ogni italiano, è come dire che ognuno di noi avrebbe in tasca 21 euro e 60 centesimi ancora nel vecchio conio. Questo naturalmente ha i motivi più vari, la Carlini ne ricorda alcuni: ci può essere appunto quello che ha deciso di tenerle per motivi di nostalgia, quello che magari le ha trovate ma per 2 o 3 mila lire non ha nessuna voglia di recarsi appunto in Banca d'Italia per poter cambiare queste lire, e magari andare alla tesoreria. Però quando si sale con i tagli invece il discorso cambia, perché gli stessi tecnici di Via Nazionale dicono: può darsi che qui ci siano anche delle banconote ancora in lire legate al riciclaggio e che quindi ci siano degli imbarazzi comprensibili da parte dei possessori nel presentarsi appunto a cambiare queste monete del vecchio conio. Tutto questo sull'Espresso di questa settimana. E cambiando, ma non troppo, argomento, non so se avete visto, ma sicuramente sì, perché lo passano con una notevole frequenza, questo spot contro l'evasione fiscale, che definisce appunto l'evasore parassita della società. Donna Moderna, che dedica una rubrica a questo tema dello spot antievasori, e la rubrica è di Paolo Landi, che è un manager, un esperto di marketing e comunicazione. È molto critico Landi su questo spot. Lui dice che sostanzialmente non colpisce gli evasori, perché dice: chi mai guarda questo spot? Io non l'ho visto sulle testate dedicate agli yacht, va in onda su canali della TV generalista, seguiti però per lo più dagli italiani che le tasse le pagano, perché sono nella maggioranza salariati tassati alla fonte. Qui io trovo questa affermazione un pochino tranchant, però prosegue appunto Landi su Donna Moderna. A chi parla dunque questa campagna? Se parla a chi non può sfuggire al fisco, vorrei dire a quanti l'hanno pianificata che gli stipendiati non devono essere ulteriormente rinsaldati nella convinzione che l'evasore è un delinquente. I ricchi che non pagano le tasse questo spot non lo hanno visto, perché non guardano la TV avendo di sera di meglio da fare. E allora come possono redimersi? Ma forse lo spot, in modo più sottile e crudele, sono sempre le parole di Landi, si rivolge alla massa degli italiani vessati dal fisco, perché nel loro intimo invidiano chi le tasse le evade, se la gode, si arrovellano per cercare di pagare meno anche loro. Tra l'altro, per l'ultima domanda, ma lo spot del governo alla fine lo paghiamo noi contribuenti e questo naturalmente genererebbe, se la considerazione di Landi fosse sensata, cioè che è uno spot poco efficace, quindi genererebbe anche un effetto poco, come dire, poco gradito per i suoi ideatori. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato un po' di soldi anche vecchi, di vecchi soldi, delle lire che sono ancora in giro, come ci informa l'Espresso, anche per una quantità tutto sommato non trascurabile, secondo la statistica, che ovviamente è assolutamente democratica ma non veritiera. Avremmo in tasca ancora circa una ventina di euro, più di una ventina di euro per ogni italiano, ancora espresso però in lire. Tra l'altro, di economia probabilmente avete visto ieri in edicola con il Sole 24 Ore il primo di questi volumi dedicato proprio al manuale anticrisi. Abbiamo raccolto i lavori, ho raccolto e aggiornato, rinfrescato i lavori del manuale anticrisi di Fabrizio Galimberti, che è una firma autorevole, autorevolissima e nota del Sole 24 Ore. Vi posso anticipare che sabato prossimo ci sarà un altro volume di questa stessa collana dedicato alle parole chiave. Ci è toccato imparare diverse parole chiave legate all'economia in queste ultime settimane, in questa estate che è stata molto molto calda da questo punto di vista. Parole come spread sono entrate ormai nel linguaggio corrente. Ecco, tutto questo appunto lo trovate in questa collana del Sole 24 Ore. Come dice efficacemente la prefazione, uno può scegliere di non occuparsi di economia, però purtroppo succede poi che l'economia si occupi di lui e qualche volta se ne occupa anche in un modo non gradevole. Questa è l'offerta del Sole 24 Ore che vi volevo ricordare. Invece, cambiando completamente argomento, avete sicuramente visto già e sentito che siamo partiti con il censimento che avrà questa data di esordio ufficiale il 9 ottobre, da cui potremo cominciare a rispedire le richieste che ci sono state inviate, ha caratterizzato i vari decenni della storia italiana. Se ne ricorda tra l'altro Vanity Fair, che mette a confronto i censimenti dal 1861 per arrivare a questo del 2011, confrontando le varie caratteristiche che hanno caratterizzato le diverse edizioni, per dir così. Il primo censimento del 61, 1861, riguardò 22 milioni di italiani e aveva un modulo unico, si prevedeva anche di indicare le balie e i dozzinanti, cioè gli ospiti a pagamento. Erano già diventati 28 milioni, pardon, nel 1881, quindi 20 anni più tardi. Saltò invece il censimento del 1890 perché mancavano i fondi e quindi si decise che quel censimento non si poteva fare. Nel 1941 il censimento è saltato solo due volte, si apprende da questa tabella preparata da Irene Soave. Il censimento saltò anche nel 1941 per il comprensibilissimo motivo che era in corso la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1961 si chiedeva agli italiani se avevano la vasca da bagno o la doccia e tra l'altro risultò che meno del 50% delle case in tutta Italia segnalò la presenza di una vasca da bagno o di una doccia. Poi nel 91 ci fu il censimento con la traduzione in inglese, in spagnolo, in portoghese, in arabo, perché cominciava a esserci una importante presenza straniera, e nel 2001 spuntò il posto auto. Non ci crederete, ma quello che ho preso leggendo Vanity Fair, solo nel censimento che facciamo ora, quello del 2011, finalmente ci chiedono se abbiamo un'automobile, perché fino ad ora ci si erano accontentati di chiederci, da 10 anni fa, se disponevamo di un posto auto. Questa volta ci chiedono invece se abbiamo non solo un'automobile, ma anche condizionatori, cellulari e anche un accesso a internet. Allora, un'altra data da ricordare, oltre a quella del 9 ottobre, potrebbe essere, ma per motivi molto diversi, quella dell'8 ottobre, perché l'8 di ottobre, apprendo da Focus di questo mese, che ci saranno centinaia di stelle cadenti, quindi una sorta di San Lorenzo fuori stagione. In realtà si tratta, come informa Focus, di un bombardamento di polveri dallo spazio che durerà circa 7 ore, potrebbe produrre appunto una delle più spettacolari notti di stelle cadenti. È una tempesta stellare che colpisce il nostro pianeta ogni anno, è causata dalle draconidi. Io spero di aver collocato l'accento nel posto giusto. Perché? Perché queste polveri e gas che generano appunto l'impressione della stella cadente sembrano provenire dalla costellazione del Drago. Questo informa appunto Focus. Ovviamente la loro visibilità, la loro maggiore visibilità è legata anche alla posizione in cui si trova il nostro pianeta. L'evento dovrebbe essere più importante quest'anno per appunto una serie di posizioni del pianeta. Si vedranno, secondo la NASA, secondo l'ente spaziale americano, si vedranno centinaia di stelle cadenti l'ora, qualcosa di simile a quanto è avvenuto nel 1933, quando la Terra appunto attraversò la coda della cometa Giacobini-Zinner, che era da poco passata al perielio. A Malta in quell'occasione si contarono 22.500 meteore in poche ore. Tutto questo succederà appunto l'8 di ottobre dalle 8 di sera. Naturalmente dovremo sperare che ci sarà un cielo limpido. Veniamo invece a cose già successe e che giustamente i settimanali che abbiamo esaminato con Anita Panizza ci segnalano. Ad esempio, già nella copertina Famiglia Cristiana ci ricorda la campagna L'Italia sono anch'io. Dispone anche di un sito se volete informarvi. Ieri è stata la giornata nazionale di raccolta delle firme nelle varie piazze italiane. Il sito www.l'Italia sono anch'io, scritto senza l'apostrofo.it, e serve praticamente a promuovere una legge che consenta ai bambini che sono nati in Italia, anche se da genitori stranieri, di non dover attendere i 18 anni per diventare, poi naturalmente passando le solite e abituali forche caudine burocratiche, per diventare finalmente italiani. Sono italiani in qualche modo a tutti gli effetti, studiano da italiani con gli italiani. E infatti a questo aspetto è dedicato anche il servizio all'interno di Famiglia Cristiana, la Giovane Italia, dove si segnala tra l'altro che ci sono 750.000 alunni in Italia con una cittadinanza straniera, sono meno in Francia, sono 500.000, il valore invece è più o meno analogo, 800.000 in Spagna. In Gran Bretagna se ne contano 1,5 milioni. Ci sono 264.000 alunni di seconda generazione nati in Italia. 10 anni fa, visto che parlavamo di censimento prima, diamo due numeri anche qui sulla popolazione, questa volta studentesca. 10 anni fa si calcolava che fossero il 2,3% del totale degli studenti, adesso sono l'8,5%. Tutto questo su Famiglia Cristiana, collegato a questa campagna L'Italia sono anch'io. Peter Bescapè nel mandare questo stacco mi ricorda anche che ci avviamo alla conclusione, abbiamo ancora un paio di minuti. Allora, vi voglio segnalare ancora due cose. La prima, da Applicando è una rivista dedicata a chi ha un computer Apple, un Mac come anche più familiarmente si chiama, perché a ottobre ci sarà il decennale dell'iPod. L'iPod, cioè quello strumento che ci consente di ascoltare la musica portandocela con noi e che ha decisamente cambiato le nostre abitudini musicali, è stato infatti lanciato il 23 di ottobre del 2001, quindi ci avviamo al decennale. Tra l'altro, in un contributo proprio su Applicando di Nicola D'Agostino si racconta come si arrivò a questa idea. Appunto, c'era questa disponibilità di un supporto un po' più piccolo di quello utilizzato fino ad allora, e così all'Apple stavano già ragionando sulla opportunità di fornire uno strumento più agile per contenere la musica, e nacque appunto da questa combinazione l'iPod, che poi ha avuto appunto una fortuna in tutto il mondo. Bene, con questa ultima segnalazione concludiamo la nostra puntata. Io vi ricordo che Magazine 24 ritorna ogni domenica sempre a quest'ora per segnalarvi gli articoli più interessanti della stampa periodica. Vi ricordo anche che potete scriverci, se volete, una mail a magazine24@radio24.it. Con il Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro, trovate anche il racconto d'autore, questa volta dedicato a un altro grande nome della letteratura come più o meno sempre in questa collana, l'autore è Mario Vargas Llosa, il racconto si chiama I Capi. Vargas Llosa è, tanto per rinfrescare la memoria, quell'autore della Zia Giulia e lo Scribacchino, o forse più recente Il Sogno del Celta. Lo trovate oggi in vendita con il nostro quotidiano, con Il Sole 24 Ore. Con questo è davvero tutto, grazie e buona domenica.